E come verrà portata sul palcoscenico la poesia? Verrà portata con la musica, perché c'è tutta una storia che mi lega ad Alda Merini. Io ho trascorso con lei 16 anni di collaborazione, che lei definiva matrimonio artistico, e ho musicato gran parte delle sue opere. Quindi facendo anche concerti assieme, dove io ho avuto la fortuna di avere sul palco accanto a me Alda Merini, che declamava i suoi versi e io li cantavo. Quindi poi dopo la sua morte, nel 2008, c'è stato poi... cercavo un'attrice che potesse impersonificare Alda Merini, che potesse essere in sintonia con il mondo meriniano, e ho conosciuto Monica Guerritore, che ho trovato perfetta per questo ruolo. Per quali caratteristiche? Beh, perché cercavo un timbro di voce molto molto speciale. Allora, pensi che la voce di Alda Merini, lei non si piaceva registrata, diceva no, io non ho la voce, dicevo, invece Alda è una voce che emoziona molto. E difatti poi l'aveva capito, il pubblico l'apprezzava molto proprio per come trasmetteva le sue poesie, come le declamava, proprio per con quel timbro di voce che racchiudeva tante, tante sfumature, tanti colori, soprattutto il colore anche della sofferenza, del dolore. E ho ritrovato nella voce di Monica Guerritore queste sfumature, anche se a differenza degli spettacoli con Alda Merini, che non cantava ma declamava i versi, in questo caso Monica Guerritore canta con me le nostre canzoni. Portare parole e musica alla poesia, insomma, mettere insieme questi due aspetti, come viene realizzato? Sono due aspetti che hanno una loro peculiarità, il commento musicale in relazione alla parola, l'ispirazione che questa può portare. Certo. Si ascoltano i brani, quindi si ascoltano i brani, come Alda Merini diceva, che la musica era perfetta per le sue parole, anzi attraverso la musica riusciva a capire, mi diceva, quello che lei aveva scritto. Quindi diciamo che c'è una fusione che il pubblico coglie. Sono tutte musiche originali? Assolutamente sì. Ecco, questa è una precisazione che volevo portare anche per il pubblico. Che assolutamente musiche originali, certo. E sarete solo voi sul palcoscenico? Con cinque musicisti, una band di cinque musicisti. Le tematiche dalla poesia, abbiamo citato la sofferenza, c'è un percorso quindi di selezione anche relativo alla poesia? Trattiamo vari temi che sono stati importanti per Alda Merini, trattiamo il manicomio ovviamente, trattiamo la sessualità, trattiamo l'amore in tutte le sue forme, l'abbandono, la gioia, il divertimento, perché Alda Merini non solo era manicomio, sofferenza, ma era anche gioia. Quindi ci sono momenti di ilarità, momenti giocosi in cui si ride e in cui ci si commuove ovviamente. E l'appuntamento è per giovedì 6 marzo alle ore 21 all'auditorium 1 maggio di Crevalcore per il cartellone Tre Teatri per te 2025. Io ringrazio tantissimo per la disponibilità Giovanni Nuti e ci vediamo. Grazie. Buona giornata. Grazie mille. Buona giornata, grazie ancora.